tratto alla De Chirico, subito onirico, ogni ricorda che Yuji fasto misto metafisico, risico, tipo risi ti sorpasso e sono fotogenico, genio nome ingegno con il lessico, in bilico, lì come un funambolo, fine del preambolo. Valgo poco quanto un ambolo, otto ma son strambo, non un simbolo. Gusto ti stintingolo, sintomo singolo, statimo intimo, indi mi sentimo. A stento rappresento me stesso, e se adesso mi confesso di fisso fisso, già mi son trovato prima d'essere represso, dopo presso poi depresso, nessuno sa l'impegno che ci ho messo, e passo dopo passo faccio ciò che posso, per sopra il rosso, il nero, lo sclero, lo schifo dove raschi, quando scavi per trovare ciò che è vero, veroniche, metriche, mitraglie di liriche, analitiche, stelitanie misteriche, mister bitichetta con seriche, seriche, tu ripetile, vedi che se cerchi l'India a volte arrivi a trovare le Americhe, beato te che bevi le cronache euforiche, che credi a criminali con tonache, toniche, ritmiche, contro crisi isteriche, catartiche, ondate clisteriche, ma parti ed è tardi per dirti che... Sono versi già persi, sono sparsi e sommersi, sono arsi rimorsi, sono io. Irregolare come questa traccia, da svergolare a mo' di carta straccia, stravi dentro gli occhi che piaccia o non piaccia, ma piano piano stanno sta faccia. Uno, nessuno, 100.000 personaggi, tutti in cerca d'autore. Uno esce di scena, uno nasce, uno muore, un altro mastica amaro d'amore. L'aroma del mare di mista, sta svista come si sta quando tutto dista. E se ti dico di ste dicotomie, le comode mielose apologie delle mie manie, manifesti apposti per le vie, vie più polleggi contro frenesie. Ed oggi Biugi già meno maneggi e bugie, ma ancora magheggi di leggi, cazzeggi che si atteggiano da filosofie, soffi morbidi di soffici elegie, tumulto di molteplici energie, nel giro di follie della folla che stride, che ride di ride, qualcosa che uccide, sfiancato da ste sfide che m'asfissiano, sfingiamo di chizza, io sfilo t'ipocrizia, mo. Tra trilli e strip e trick e trip di troppi calcoli, e manco lì rimbrocchi e brancoli, ti blocchi, tabbiocchi nel branco lì, legato a un paranco, ad un'ancora, cuore stanco che scappo laggiù, io stacco ma stanco andando sto loop. Sono persi, sono persi, sono arsi rimasti.